Nell'affollamento delle merci spesso il tempo va a farsi benedire. E io non mi ricordo più quando sono comparsi i fagolosi. Magnifica soluzione morfosemantica, i fagolosi. Forse sono comparsi da qualche mese appena. Forse li ha portati invece che Marco Polo dal Giappone. Forse erano sui fagolosi che avevano litigato Leibniz e Cartesio. Forse, ma no, sono forse il frutto più fragrante della fisica quantistica. Fatto sta che mi ero appena abituato a tre fagolosi. Sono croccanti e stuzzicanti, come dice il sottotitolo. Sono salati e delicati, come dice il sottosottotitolo. Sono grissimbon, come dice il sottosottosottotitolo. E provengono dal cesto di Alice, come dice il sopratitolo, facendo rivoltare nella tomba Lewis Carroll, che mai e poi mai avrebbe pensato di contribuire un giorno alla mia colazione del mattino. Mi ero appena abituato che tracchete erano spariti dalle capaci scansie del supermercato. Al loro posto troneggiavano i nuovi fagolosi al rosmarino, erba che da un po' provvede alla sanatura ideologica di che sia. Obbediente mi ci ero adattato. Anch'essi, d'altronde, potevano vantare quei granelli di sale così ben disposti, ad accurata distanza l'uno dall'altro sulla verticale, presumibilmente disposti da meticolosi laureati in psicologia della percezione e in psicometrica. Obbediente mi ci ero adattato, ma il tarlo della memoria, tutte le mattine che Dio mandava in terra, rodeva e rodeva. Non dovevo disperarmi. Dovevo nutrire più fiducia nel sistema delle merci e della retorica che le governa. Sono tornati. Sono gli stessi fagolosi di prima, con la novità sostanziale che ora sono definiti gusto classico. Tempo e merci. Ci sono state epoche in cui la classicità è stata la conquista di secoli e secoli. E c'è questa di epoca, in cui quasi non fa in tempo a capire il gusto della novità che nel frattempo è già diventata un classico. Grissini romani, voglia di impero, sulla confezione di domani mattina.